La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al nuovo assetto delle relazioni internazionali. Alla fine degli anni Ottanta, la dissoluzione del mondo comunista ha completamente ridisegnato lo scenario politico globale. È finito l'equilibrio bipolare della Guerra Fredda. Nuovi protagonisti sono venuti avanti. Nuove zone di tensione sono emerse. Ospite ai nostri microfoni, Guido Formigoni, ordinario di storia contemporanea nella Libera Università di Lingue e Comunicazione, IULM. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato al più famoso trafficante di cocaina al mondo, il colombiano Pablo Escobar. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Con la caduta del muro di Berlino e il crollo dell'Unione Sovietica alla fine degli anni Ottanta è profondamente mutato l'assetto degli equilibri geopolitici che hanno caratterizzato gran parte del Novecento. Saltato l'equilibrio bipolare che si era determinato nei decenni della Guerra Fredda, sono emersi sullo scenario internazionale nuovi protagonisti e la tensione si è spostata verso nuove aree. A tutt'oggi il sistema internazionale stenta a ritrovare un equilibrio e ora, sotto i colpi della crisi economica che ha investito le economie dei paesi più industrializzati, nuovi soggetti politici e intere aree economiche infrangono i vecchi assetti mondiali. Argomenti di cui si occupa il libro di Ottavio Barié, Dalla guerra fredda alla grande crisi, il nuovo mondo delle relazioni internazionali, appena pubblicato dal Mulino. L'attenzione è rivolta in particolare ai due ultimi decenni di politica internazionale, dall'eredità della guerra fredda alla vittoria dell'Occidente con l'implosione dell'Europa comunista, dal difficile unilateralismo americano all'espansione del radicalismo islamico, dal faticoso cammino dell'Unione Europea all'emergere della Cina come grande potenza che potrebbe far prevedere un ventunesimo secolo posto sotto il segno dell'Asia. Fra gli anni 80 e 90 la situazione internazionale subisce cambiamenti tanto radicali quanto tra loro differenti. La nascita del nuovo mondo va anzitutto considerata nella conclusione diplomatica della guerra fredda tra le due superpotenze USA e URSS, che sanziona ufficialmente la vittoria dell'Occidente fondata sulla superiorità radicata nella storia contemporanea e capace di tradursi in superiorità militare. Ma anche sul riconoscimento progressivo da parte della leadership sovietica di non poter più sostenere il logorante confronto. La vittoria dell'Occidente ha peraltro un limite perché la sconfitta e la fine dell'Unione Sovietica non si è accompagnata a quella dell'altro stato comunista dell'Oriente, la Cina post-maoista, che non solo sopravvive ma si consolida, a patto però di accogliere un capitalismo che è sicuramente sui generis e non può evitare di adottare forme e metodi delle società economiche dell'Occidente. Ecco dunque profilarsi il nuovo assetto geopolitico dell'era della post-guerra fredda. Conflitti si radicano nel tormentato scacchiere del Medio Oriente e nell'Europa orientale e balcanica, fino all'esplosione di quello che viene definito il nuovo Medio Oriente, dell'Afghanistan, dei talebani e di Al-Qaeda. Nel corso degli anni 90, gli Stati Uniti, superpotenza superstite, dispongono delle forze militari per sostituire al sistema bipolare della Guerra Fredda un sistema monopolare, ma non lo fanno. Le due presidenze che occupano il decennio si attengono entrambe alla linea di internazionalismo delle Nazioni Unite, che dalla Seconda Guerra Mondiale è divenuta una delle due direttive di base della politica americana. L'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 offre ai neoconservatori l'occasione per assumere per qualche anno il ruolo attivo che non sono mai riusciti a conquistare nemmeno durante la presidenza imperiale di Reagan. Diamo il benvenuto al professor Guido Formigoni, che è ordinario di storia contemporanea alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, che peraltro sarà uno dei relatori alla presentazione del libro di Ottavio Barié all'Università Cattolica il prossimo 5 giugno. Buonasera professore. Buonasera a voi. Ci aiuti allora a capire meglio, anche attraverso la sua esperienza e la sua competenza sull'argomento, quali sono, come si delineano i nuovi assetti e gli equilibri nelle relazioni internazionali, appunto dalla guerra fredda alla grande crisi, come recita il libro di Ottavio Barié. Il libro in innanzitutto è stato scritto non casualmente da uno storico che ha una certa profondità di sensibilità e di approccio temporale, che ha studiato molto l'Ottocento, per esempio, e quindi questo si vede anche occupandosi di un argomento così contemporaneo, nel senso che la prima riflessione che il libro propone è l'andare a cercare nel periodo della Guerra Fredda quello che stava cambiando, che magari la Guerra Fredda non faceva apparire, perché c'era questo ordine bipolare, un ordine, diciamo, di guerra non combattuta, un ordine molto militarizzato, ma comunque un ordine. Ma sotto questo ordine le cose stavano cambiando. Quindi quello che è successo poi dopo va un po' indagato nelle sue radici di lungo periodo, per esempio comprendendo come gli equilibri interni al mondo occidentale stavano cambiando, per esempio come questa possibile espansione della democrazia. Huntington tempo fa parlava della terza ondata della democrazia, stava preparandosi, per esempio come anche le questioni complesse di un'area tormentata come quella del Medio Oriente stavano già mettendo tutti i semi di una situazione più incerta che poi appunto è esplosa dopo l'89. Sì. E questo è appunto un po' anche la giustificazione del fatto che la vittoria dell'Occidente nella Guerra Fredda sia stata una vittoria un po' imprevista e comunque anche un po' difficile poi da gestire, perché questi fenomeni che stavano muovendosi erano fenomeni non semplici da controllare anche da parte di una superpotenza come gli Stati Uniti, che comunque indubbiamente mantenevano un primato strategico, militare, politico, magari non più aiutato tanto da un assoluto primato economico come era stato quello invece del 45 e del secondo dopoguerra. In ogni caso, professor Formiconi, si potrebbe dire che all'equilibrio, seppur appunto fondato su una guerra non guerreggiata, che ha caratterizzato buona parte della storia dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia subentrato un equilibrio instabile, in sostanza un non equilibrio determinato dal fatto che esistono appunto queste tensioni. Peraltro nel libro si ipotizza un ventunesimo secolo sotto il segno dell'Asia. Ecco, in che senso possiamo delineare questo scenario futuro? Ma rispetto al discorso dell'equilibrio instabile o del non equilibrio, mi pare che il libro non sia seguace di quelle visioni che pure ci sono state nel dibattito anche intellettuale degli ultimi anni, che hanno messo in luce fortemente gli elementi di disordine, il passaggio da un ordine al disordine. Qualcuno si è spinto a dire rimpiangerete gli anni della Guerra Fredda. In realtà sotto questo profilo il libro non è così portato a sottolineare appunto gli elementi di disordine, sottolinea certamente il fatto che la leadership americana si è espressa in modo diverso in questo periodo e non sempre è riuscita appunto a ottenere il risultato di controllare le situazioni critiche e di esercitare una egemonia nel senso non soltanto di dominio, perché come sappiamo una delle lezioni della storia è che chi imposta la propria egemonia in termini di dominio sugli altri è destinato a vedere questa egemonia ridursi e suscitare più che altro antagonismi. Quanto invece al tema dell'Asia, sì. Nel libro si parla appunto con grande attenzione ovviamente di questo fenomeno. Qui ci sono aspetti economici da prendere in considerazione, non tanto nel senso di dire che la ricchezza sta spostandosi da una parte all'altra del mondo, perché in realtà appunto il boom dell'Asia orientale, prima del Giappone già nel dopoguerra, poi delle famose quattro tigri, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Corea del Sud, poi attualmente della Cina, è un boom molto legato e intrecciato con il capitalismo globale e con le basi anche di tipo occidentale di questo capitalismo globale, ma soprattutto appunto nel senso che nuovi soggetti stanno emergendo e questi soggetti sono soggetti però da interpretare appunto nella loro specificità. Il tentativo di leggere appunto la politica della Cina post-maoista è fatto nel libro con una certa attenzione, non c'è l'idea, che anche questa è corrente in una certa lettura dei fatti, che in qualche modo sarà ineluttabile un antagonismo tra Cina e Occidente, tra Cina e Stati Uniti. La Cina appunto sta consolidando quello che dal suo punto di vista è uno Stato che ha radici lontane nel tempo, una civiltà appunto plurimillenaria, con un approccio particolarmente prudente e attento all'ambiente internazionale. E questo probabilmente porterà a far sì che certamente ci sarà un confronto di prospettive, certamente ci saranno momenti di condivisione di interessi, anche magari momenti di dura contrapposizione, però non nella logica di una ipotetica ripresa di un bipolarismo da guerra fredda. In questo senso il libro mi pare mette in luce molto bene la differenza tra la superpotenza sovietica del passato, sì, e l'eventuale potenza cinese del presente e del prossimo futuro. E in questo contesto, è l'ultima questione che volevo sottoporle, professore, è l'Occidente alla prova, come appunto si intitola uno dei capitoli del libro, alla prova di queste sfide che sono anche indotte dalla crisi economica e dalla globalizzazione. Certo, e anche dal fatto che i valori dell'Occidente, la cultura che in qualche modo, pur con grandi differenze, gli Stati Uniti e l'Europa condividono, è sfidata alla sua capacità appunto di esprimere un reale universalismo, perché la fine della guerra fredda in qualche modo aveva fatto parlare, ricordiamoci appunto Fukuyama, della fine della storia, cioè di una sorta di modello ormai vincente che si sarebbe tranquillamente dipanato e sviluppato senza più rivali. E invece probabilmente appunto non tanto rivali nel senso di visioni organiche contrapposte dal punto di vista religioso ideologico, ma dall'interno stesso del modello occidentale sono emerse in questi anni le preoccupazioni sulla sua capacità di interpretare il proprio universalismo, cioè la propria capacità di adattarsi a situazioni diverse. Questa è una grossa sfida, la sfida del mondo islamico probabilmente è qui, perché al di là della minoranza radicale, estremista, il problema è verificare se sia possibile una convivenza, un intreccio, un'evoluzione che porti l'Islam religioso a scoprire la modernità, a intrecciarsi con il linguaggio dei diritti, della libertà, del costituzionalismo occidentale, che è probabilmente la sfida che riguarda questa parte giovane e in fermento del mondo. Bene, grazie professore, buona serata. Grazie a voi. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato al criminale colombiano Pablo Escobar. Barone miliardario della cocaina, eroe popolare per i poveri della Colombia, Escobar, secondo la rivista Forbes, quando il suo impero raggiunse la massima espansione, era il settimo uomo più ricco del mondo. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 2 giugno, alle 16:05, su History Channel. Sono David Eisenbach, sono uno storico e un autore. Abbiamo tutti familiarità con personaggi ed eventi famosi, ma quanto ne sappiamo davvero? Quando nominiamo Pablo Escobar, pensiamo al barone miliardario della cocaina. Gli piace raccontare di essere stato un povero ragazzino di strada che crescendo è diventato miliardario, ma la sua storia strappalacrime è una bugia. Nasce nel 1949 da un allevatore medio borghese chiamato Abel de Jesus Escobar. Sua madre, un'insegnante, ha grandi speranze per il giovane Pablo, uno studente paffuto, educato e diligente che prende voti alti finché non scopre l'erba. Naturalmente la sua passione per gli spinelli non aiuta il rendimento scolastico, perciò a 16 anni decide di lasciare la scuola e promette alla madre delusa che un giorno avrà un grande successo. Per tutta la sua esistenza, Escobar non mostra mai molto rispetto per i vivi, ma da ragazzo non ha rispetto neanche per i morti. La sua prima impresa criminale consiste nel trafugare lapidi dai cimiteri e cancellarne i nomi per poi rivenderle ai parenti di un altro defunto. Stephen Neufeld, docente California State University Fullerton. In Colombia rubare lapidi era una tradizione. La gente le trafugava e le rivendeva per il marmo da molto tempo. Ma poco dopo, il giovane Pablo smette di rubare ai morti e inizia a incassare molti più soldi con i rapimenti di persone facoltose liberate in cambio del riscatto. Nel 1971 rapisce il ricco industriale Diego Echevarria. La famiglia di Echevarria paga $50,000, ma Pablo ordina lo stesso di picchiarlo e ucciderlo. I poveri delle baracche di Medellín festeggiano la morte di Echevarria come un atto di giustizia sociale e iniziano a chiamare Escobar El Doctor. Escobar ama l'ammirazione e fa suo il mito di Robin Hood, come se i suoi crimini fossero parte di una grande crociata contro il potente. Quando il presidente Richard Nixon dichiara guerra alle droghe nel 1971, il bersaglio è l'eroina proveniente dal sud-est asiatico. Ma alla fine degli anni 70, l'Agenzia Federale Antidroga inizia a concentrarsi sulla cocaina dal Sud America. I chimici di Escobar escogitano modi astuti per nascondere la cocaina. La liquefanno e la aggiungono a prodotti venduti comunemente come il vino cileno. La usano anche per innaffiare fiori. Immergono i jeans firmati nella cocaina liquida, che poi verranno strizzati all'arrivo. Tito Dominguez, ex socio di Escobar. In Colombia c'era una grande industria tessile, una delle più grandi del Sud America, dove portavano i container con gli articoli di abbigliamento. Poi li prendevano, li immergevano in diverse soluzioni chimiche per estrarla e ottenere così la cocaina. Quando la domanda di cocaina esplode in tutti gli Stati Uniti, Escobar ha bisogno di trovare un modo per trasportare grossi carichi attraverso i Caraibi. È l'occasione perfetta per qualunque pilota desideroso di arricchirsi velocemente. Mickey Monday, ex socio di Escobar. Ero il corriere espresso del cartello. Non la compravo né la vendevo, non la usavo e non la rubavo. La consegnavo e basta. La sganciavo in volo su una barca. Escobar compra un Boeing 727 e fa eliminare i sedili per poter trasportare 10 tonnellate in un colpo solo. Ha anche un sottomarino che può far viaggiare cocaina dalla costa della Colombia a Porto Rico senza essere intercettato. Presto Escobar scopre che non ha nemmeno bisogno di camuffare la sua merce. Effettua talmente tante spedizioni negli Stati Uniti che le forze della legge intercettano appena un carico su 10. Una consegna mancata è solo il prezzo degli affari. Alla fine degli anni 70, la cocaina è la maggiore industria colombiana. I narcodollari invadono il paese e Pablo scopre come corrompere gli ufficiali governativi e uccidere senza pietà. Il denaro sporco corrompe il governo colombiano, che aiuta Pablo Escobar a risolvere il problema più grande di qualunque narcotrafficante. Come ripulire i soldi? Robert Mazur, ex agente federale degli Stati Uniti d'America. Ho trascorso 2 anni sotto copertura per dare l'impressione di essere un imprenditore legato alla malavita, in grado di riciclare denaro. Le cifre sono esorbitanti. Per loro è un problema costante ripulire il denaro dal sangue per farlo sembrare legittimo. Il governo colombiano approva una legge che consente la conversione di quantità illimitate di dollari americani in pesos colombiani. E la banca centrale escogita un modo per facilitare gli investimenti nel business della cocaina. Prendono miliardi di dollari sporchi dai signori della droga e poi vendono obbligazioni con interessi altissimi agli investitori e tutti sono felici. Gli investitori, i banchieri, gli ufficiali e soprattutto Pablo Escobar. Niccolò Machiavelli disse che per un principe è più sicuro essere temuto che amato. Escobar vuole essere entrambi. Sa che il governo colombiano di Bogotà è guidato da un'elite aristocratica che non fa niente per i poveri. Quindi a Medellín costruisce istituti di accoglienza, scuole, stadi di calcio e piste di pattinaggio. È anche un datore di lavoro generoso. I suoi dipendenti possono acquistare case e far studiare i figli. In un paese dove il 3% della popolazione possiede il 97% del terreno, Pablo Escobar e il traffico della cocaina favoriscono la crescita sociale dei più poveri. In tanti amano Pablo. È una specie di eroe popolare. Tito Dominguez, ex socio di Escobar. Non voglio sparare a zero sul governo, ma Pablo ha fatto più del governo per il popolo colombiano di quell'epoca. Se entri nelle case di Medellin, hanno tutti una foto di Pablo con le candele accese, come se fosse un santo. Naturalmente, quando non è amato, Escobar non esita a usare la paura. Guida il suo impero con una semplice regola: mazzetta o piombo. O ti fai corrompere o ti prendi un proiettile. Grazie a lui, il tasso di omicidi a Medellin raddoppia, mentre polizia e governo non fanno niente per fermarlo. Nel 1982, Ronald Reagan cambia la strategia della guerra americana alla droga. Il suo Dipartimento di Giustizia condanna Pablo Escobar e il Dipartimento di Stato negozia un trattato di estradizione con il governo colombiano. Quando sembra che la Corte Suprema colombiana stia per approvare la sua estradizione negli Stati Uniti nel 1985, Pablo paga $1,000,000 a un gruppo di guerriglieri chiamato M-19 per attaccare il Palazzo di Giustizia e prendere in ostaggio tutti i membri della Corte Suprema, compreso lo staff. Quando i militari irrompono nell'edificio, oltre 100 persone, inclusi 11 componenti della Corte, vengono uccise. Nel 1992, Escobar è il bersaglio primario della battaglia americana contro la droga. Il presidente George W. Bush invia corpi speciali in Colombia per addestrare militari e polizia. Nel 1990, Pablo è in fuga dai corpi speciali americani e dalle unità di polizia colombiana preposte alla sua cattura. Mentre è latitante tra le fredde montagne colombiane, sua figlia entra in ipotermia e quindi accende un fuoco con l'unica cosa che ha a disposizione: $2,000,000 in contanti in biglietti da 100. Stephen Neufeld, docente California State University Fullerton. Pablo si ritrovò in una brutta situazione dopo quasi 2 anni di latitanza. Aveva tutti i soldi del mondo, ma in un paese in cui è difficile cambiare $20, le sue pile di biglietti da 100 non servivano a molto. La latitanza limita la sua capacità di gestire il suo impero. Pablo lascia la guida a 2 famiglie di Medellin, i Moncadas e i Galeanos. Quando sospetta che vogliono escluderlo, convoca i 2 capifamiglia e li uccide. Le famiglie si vendicano pagando un gruppo di vigilanti incaricati di terrorizzare Pablo. Incendiano le sue case e perfino la dimora di sua madre. Danno fuoco a un magazzino che ospita la sua collezione di auto antiche. Torturano uno dei suoi avvocati e uccidono 5 suoi parenti e sparano addirittura una granata a razzo contro l'edificio in cui abita la sua famiglia. Pablo Escobar è molto preoccupato per la sicurezza dei suoi cari e inizia a chiamarli tutti i giorni da un telefono portatile. Stephen Neufeld, docente California State University Fullerton. Quando le ricerche si restringono, iniziano a volare in tondo con piccoli aerei, triangolando la sua posizione dal suo telefono. Anche se è spento, possono scoprire dove si trova. Alla fine, qualcuno riesce a scorgerlo dietro una finestra. Sfondano la porta e lo inseguono mentre lui scappa in pigiama, a piedi nudi, sui tetti di Medellin. La polizia apre il fuoco. Lo colpiscono a una spalla e a una gamba, mentre un proiettile gli entra in un orecchio per uscire dall'altro. Non è ancora chiaro chi abbia sparato il colpo letale alla testa di Pablo. Qualcuno dice che sia stato un poliziotto presente sulla scena. Altri pensano al colpo di fucile di un cecchino molto esperto. In ogni caso, quel giorno nessuno fa troppe domande. I poliziotti esaltati radono i baffi di Pablo per farlo somigliare a Hitler e posano per le foto di fronte al cadavere dell'uomo che ha terrorizzato la loro nazione per oltre un decennio. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo 10 cose che non sai di Pablo Escobar. Regia Mark Cole, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione EITN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 2 giugno, alle 16:05 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.